9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 5 novembre, venerdì. Molti interrogativi dopo la direzione del PDL di ieri, una direzione nella quale personalmente, a dirvi la verità, non sono stato molto sorpreso da non sentire risuonare alcuna parola del Presidente del Consiglio sullo stile e il suo comportamento, che quando si rivestono ruoli pubblici, a mio modestissimo giudizio, è un problema, perché fa parte di ciò che istituzionalmente arriva di come svolgi il tuo ruolo, arriva all'estero, arriva in Italia, arriva sui media internazionali, arriva su quelli italiani. Ma personalmente non mi sono sorpreso di non ascoltare una parola su questo, tranne che vederlo volgere in un vittimistico consueto, questa volta a me pare improprio, a dirvi la verità. Tante volte sono stato d'accordo, frutto di un attacco del complesso mediatico giudiziario. Io sono tra quelli che dicono che la macchina mediatico giudiziaria contro il Premier c'è stata, c'è ancora, è potente, è un fattore costitutivo del bipolarismo anomalo messo in piedi da quella anomalia di politico che Berlusconi, un uomo che nasce nell'impresa, è un uomo del fare, un uomo che a 16 anni di distanza recita ancora la parte di chi è in politico ed è alieno dalle abitudini, anche dalle buone abitudini, non solo dalle cattive, questa è la mia opinione, della politica istituzionale un po' ingessata. Però ritengo che oggi la macchina mediatica giudiziaria c'entri fino a un certo punto, non c'entri col nocciolo di fondo del caso Ruby, del caso delle nuove ragazzine e ragazzotte, perché... Però detto questo, ieri la prima cosa che abbiamo sentito su questa materia è che potrebbe essere orchestrata da... Abbiamo un audio di Berlusconi che ci spiega da chi potrebbe essere orchestrata. Sentiamolo un secondo meglio con le sue parole. E i colpi che noi stiamo infierendo alla malavita organizzata ci fanno dire che nessuno oggi può con certezza escludere che alcune delle cose che accadano siano anche frutto di qualche vendetta della malavita. Ecco, ci credete voi che Ruby, sì, certo, il padre marocchino abita a Letoianni, però è orchestrato dalla mafia, dalla camorra, dall'andrangheta? Non lo so, forse questa seconda che esce fuori da Reggio Emilia collegata alla ex assistente politica che poi si è data al crack che è in carcere, la Perla. Questa la seconda e la terza sono orchestrate dalla malavita, ma non lo so. Io tendenzialmente sono molto scettico. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione oltre a quella dei nostri ospiti. Dopodiché gli interrogativi sono invece sul nocciolo della direzione del PDL, la prima di una sistematica convocazione una volta al mese, ha detto Berlusconi ieri, che finalmente dovrebbe uscire il PDL dalla consueta accusa di essere un non partito, cioè un puro movimento carismatico, una proiezione di Berlusconi e delle sue scelte. Si riunirà una volta al mese, chissà se ci sarà così lunga vita però per il PDL, perché il succo del discorso scrittogli dalle tra virgolette teste d'uovo, così le ha chiamate il Presidente del Consiglio, era lanciare la palla nel campo dell'onorevole Fini in attesa del discorso che pronuncerà domenica. Nelle ore immediatamente successive, ennesima conferma anche nel campo dell'onorevole Fini che c'è una spaccatura tra chi, come l'onorevole Bocchino, subito fa trapelare la dichiarazione di Fini, discorso tardivo, ma che figuriamoci se possiamo prenderlo sul serio, correzione ufficiosa da parte del Presidente della Camera. Quello che si capisce è che da entrambe le parti, da una parte l'appello rivolto a Berlusconi e Fini è pronunciato con l'esplicita riserva di Berlusconi di non credervi, perché su tutti i giornali questo leggete, e con le esplicite dichiarazioni, già stamattina si è approvate le reti televisive, c'erano berlusconiani di tutta osservanza come l'onorevole Santanchè che dicevano: personalmente non credo affatto che l'onorevole Fini sia nelle condizioni, abbia la voglia di darci questo patto di legislatura che gli viene chiesto di fare. Quindi, come dire, dici che non stai più con noi, così andiamo a votare. Dall'altra parte mi pare che la fotografia sia del tutto analoga. cioè nel campo dell'onorevole Fini, vi siano personalità che esplicitamente o implicitamente fanno trapelare di considerare del tutto rotta, senza significato, senza presente e senza futuro, l'alleanza con il PDL e con Berlusconi, e dall'altra ve ne siano altri come Viespoli e altri esponenti intorno a Fini che dicono siamo tutti pazzi per uno scontro personale irriducibile a cifra politica, per ambizioni e che vengono da anni lontani e per irriducibile ormai incapacità di convergere sulla politica, stiamo facendo un regalo all'altra parte che era così debole, resta così debole nei sondaggi, guardate il PD, incerto tutto, e invece noi ci stiamo inabissando di fronte al nostro elettorato, riproponendo una commedia di ambizioni personali che niente hanno a che fare con il mandato politico che avevamo ricevuto. Come avrete capito fino alla mia introduzione, io rimango molto scettico. Quando il nocciolo duro dei fedeli di Berlusconi e di Fini ha queste idee, vuol dire che le ripropongono perché le leggono nella testa e sulle labbra dei loro capi. Quindi, se è così, credo che l'alleanza del centrodestra sia e resti morta. Tranne il fatto del giochetto, il cerino, chi, come, dove e quando lo può fare inabissare. Una cosa è sicura, credo che i sondaggi siano inequivocabili alla maggioranza degli coloro che sono eletti nel centrodestra, gli italiani che le hanno eletti e gli italiani in generale, compresi quelli dell'opposizione, piuttosto che elezioni nella commedia, dall'incertissimo esito con questa legge elettorale, e piuttosto che un transito imprevedibile verso leggi elettorali nuove, come quelle di cui si legge sui giornali in questi giorni, preferirebbero semplicemente vivere in un altro paese europeo o mondiale di quelli di cui leggiamo sulle cronache che si occupano dei problemi concreti. Lo abbiamo detto, l'esempio della Gran Bretagna, l'esempio degli americani che cambiano al voto il segno delle politiche di Obama, l'esempio cioè di paesi nei quali i problemi, i toni, lo stile sono leggermente diversi dal nostro. Lo dice non un esterofilo, perché io amo il mio paese. Sentiamo dopo questa, come al solito troppo lunga introduzione, gli ospiti della nostra trasmissione, invitando voi tutti a dirci come la pensate. Ricordate il numero, lo conoscete, 800240024. Cominciamo con il direttore del Tempo, il mio intramontabile amico Mario Sechi. Buongiorno direttore. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora. Piero Sansonetti, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Ci credi, Piero, tu a la regia della mafia e della malavita dietro quello che è avvenuto in queste ultime settimane? No, non ci credo, come non credo al 90% delle cose che sono state scritte sui giornali. Purtroppo questa è una vicenda, e sempre più tutte le vicende pubbliche stanno diventando così, dove la percentuale di verità nell'insieme dell'informazione che ci viene fornita sfiora in genere il 7-8, massimo 10%. Io quando leggo i giornali so che devo, se ci riesco, a trovare qual è nella massa di informazioni che mi viene data il 10% di verità. Io, Oscar, credo che questo sia un problema. Ora, no, non credo neanche alla cosa di Berlusconi, è ovvio che dice la malavita, quella però è più identificabile come propaganda politica, no? È una, è un modo in cui Berlusconi dice non solo mi stanno infangando e stanno, ma invece voglio anche dirvi cosa ho fatto io di positivo, ho combattuto la mafia. È un, diciamo, una retorica tradizionale che permette di mettere insieme due cose, che è propaganda, è una cosa diversa. L'altro problema è che nella massa delle informazioni che arrivano ormai è sempre più ridotta e considerata persino superflua l'elemento della verità, non è più considerato una caratteristica dell'informazione. Eventualmente un po' di verità ci può andare, e questo, Oscar, è un dramma, per, io non dico nemmeno per la democrazia, ma per la piega che sta prendendo lo sviluppo della nostra civiltà pubblica. Ma e quanto in percentuale secondo te colpa dell'informazione di noi tutti, non dico loro come se noi fossimo esenti? Sì, è quasi totale. Il responsabilità che ha il ceto giornalistico italiano è gigantesca. Siccome anch'io non sono esterofilo, poi non è vero che nel resto dell'Occidente il problema non si ponga, però certo in forme molto diverse. Io i giornali stranieri che leggo già sono quelli americani. Beh, insomma, non c'è paragone fra i giornali americani e i nostri, sono due animali con DNA diverso, diciamo così, anche se pure i giornali americani hanno dei grandi problemi, anche se per esempio il peso che ha avuto la Fox nella campagna elettorale americana è mostruoso, noi qui Murdoch ci sembra il campione della democrazia contro l'oppressore Berlusconi, lì loro pensano il contrario, diciamo, ma insomma questo è un fatto secondario. Però la questione è che in Italia non esiste più, Oscar, non esiste più un ceto giornalistico. Il rapporto fra informazione e professione, che io adesso ho 60 anni, diciamo, faccio questo mestiere da 35 anni, ma che si aveva quando, io parlo di 30 anni fa, di 25 anni fa, di, non esiste più. Io proprio pongo questa questione, l'uso della verità. La verità è considerata un, non solo non una cosa essenziale, ma addirittura in sostanza un nemico, perché è uno che complica le cose, che non, il rapporto è solo fra informazione, mercato e politica, e questo crea un cortocircuito che, sul quale la responsabilità fondamentale, inutile che la diamo ad altri, è del ceto giornalistico che si è suicidato. Domanda per Secchi, mi ha molto colpito un prendo proprio alla lettera queste parole di Piero Sansonetti adesso sul ceto giornalistico, che quindi ingrandisce, tira i toni, li alza, fa diventare cose ordinarie e straordinarie e così via. Un grande effetto di prestigitazione in cui alla fine non si capisce più qual è la realtà di cui preoccuparsi rispetto a una realtà tutti i giorni così paradossalizzata che diventa o una tragedia se uno prende tutto sul serio, a quel punto non può prendere tutto sul serio, finisce in commedia. Ma mi ha molto colpito, domanda per Mario Secchi, sfogliare oggi il numero di Panorama che c'è in edicola. Il numero di Panorama che è in edicola contiene diversi spunti di riflessione sulle vicende di questi giorni. C'è Giuliano Ferrara che dice: lo scandalo di Berlusconi resta, dopo 16 anni, quello di aver sostituito con grande energia l'idolatria dello Stato, il culto delle istituzioni, con una politica centrata sulla persona, compresa il suo scandalo. E questo è lo scandalo dello scandalo che non si perdona a Berlusconi, comprese le ragazze, eccetera, dice Ferrara. Dall'altra parte, Stefano Lorenzetto dice: ma perché dobbiamo vivere in un paese in cui l'informazione fa di queste vicende oggi il metro di giudizio di Berlusconi, facendo finta di non farci capire che lo si vuole buttare via per l'ennesima volta con le procure e così via, quando invece se avessimo adottato, come anche in qualche misura ci fa capire Sansonetti, lo stesso metro di oggi, allora avremmo dovuto definire Cavour un erotomane, Vittorio Emanuele II un pericoloso, eccetera, eccetera, fino a presidenti democristiani del Consiglio della Repubblica e così via. Ti sembra una difesa eccessiva di partigiani che si trovano privi di argomenti, oppure in effetti è così e stiamo prendendo lucciole per lanterne? Ma dunque, stamattina vogliamo altro, vero? Allora, intanto non sono d'accordo con le cose che dice Sansonetti, non perché non vi siano degli elementi di verità, ma perché la sua è una estremizzazione del quadro, cioè dire che la colpa è dell'informazione è troppo facile, è buttarla in cacciara. Cerchiamo di mettere un po' di pedine al loro posto. Allora, l'informazione è vero, ha un ruolo fortissimo, più forte che in passato. E la cosa è molto semplice in realtà, lo è perché sono più deboli i partiti. È lo spazio polemico, che solitamente, polemico inteso nel senso dell'etimologia greca, no? di discussione, di emersione degli interessi contrapposti e delle idee, che è la democrazia in fondo, questo spazio è occupato dai giornali. Laddove la politica è debole, altri soggetti occupano quello spazio, lo occupano i giornali e a suo tempo, e ancora oggi a intermittenza, è stata la magistratura a occuparlo, pensateci bene. Quando i partiti erano deboli e destrutturati, la magistratura ha occupato quel posto. I giornali fanno un altro tipo di lavoro e occupano uno spazio che prima era delle segreterie politiche sostanzialmente, ma indeboliti i partiti, destrutturati e ridotti a movimento d'opinione e a sola leadership, è chiaro che emergono altri soggetti. E questo è un dato. Per quanto riguarda le difese di Berlusconi, allora Giuliano Ferrara ha ragione sul punto, nel senso che quando dice che non si perdona Berlusconi l'aver sostituito lo Stato con la sua persona in quanto narrazione e racconto, no? Di una storia italiana, no? Ricordi il titolo di uno dei suoi. E come no? Non è casuale quel titolo. Una storia italiana, cioè la storia di un uomo, non la storia di un movimento né di un popolo, ma la storia di un uomo è attraverso varie propagini della famiglia, no? Punto, questo è. È un bene? Non lo so. non lo so, io dico che certamente... Però vedi Mario che anche tu dici non lo so, no, perché vale. C'è... Ma guarda, non è una critica, per no. capirci. Io quando ieri seguo la direzione del PDL e vedo che dopo l'intervento di Berlusconi c'è in buona sostanza un'esibizione, è una manifestazione di propaganda, cioè, infatti la gente se ne va, la gente che ha da fare dopo, no? Sente Berlusconi, a Ciccio se ne va. Allora, perché avverto? Avverto in qualche misura, senza volerti accostare, la stessa situazione che adesso dicevi tu e che anch'io per tanti anni ho avuto, prima di dire no, la misura è colma. Cioè la mia opinione è questa: se a me, con tutto il rispetto, nei miei rapporti privati, con le persone con cui ho affetto, con i clienti per cui lavoro, iniziano a capire che io ricevo minorenni e droga eccetera eccetera, sia vero o non sia vero, perché il problema prima di quello lo sappiamo nella vita qual è. Io lavoro per banche, per esempio, penso che le banche mi manderebbero a quel paese, le banche per cui lavoro, perché direbbero: Oscar Giannino non è reliable, non ci fidiamo, e non va bene che sia così. Allora perché deve essere così per Oscar Giannino e non deve essere innanzitutto per un presidente del Consiglio? Ecco, la sua storia personale va bene, ma noi dobbiamo parlare di questa storia personale. All'ultimo punto, Oscar. L'ultimo punto è quello della vita privata e della vita pubblica, no? C'è chi dice, sostiene, con argomenti anche validi se vogliamo, che le due cose debbano essere separate, ossia, per essere chiari, ciò che fa il cavaliere sotto le lenzuola non è di interesse politico, questa è una tesi estrema secondo me. L'altra tesi è: ciò che fa il cavaliere sotto le lenzuola riguarda tutti, altra tesi estrema. Allora, in realtà bisognerebbe avere quel che si chiama senso dello Stato. Kennedy, che fu un grande presidente degli Stati Uniti e che prese decisioni giuste e decisioni sbagliate, aveva una vita privata a dir poco turbolenta. Chiunque abbia letto le biografie del presidente JFK può rendersene conto. Aveva una vita sessuale a dir poco travolgente. E se le passava pure col fratello. Se le passava col fratello, andava con le mogli degli amici, con le fidanzate degli amici, e non se ne faceva alcuno scrupolo. Stava con Marilyn. Qual è la differenza con l'oggi però? La differenza con l'oggi è che lo Stato, ossia i servizi segreti americani, tutto l'apparato, lavorava per tutelare l'istituzione. Non si seppe praticamente nulla delle ribalderie di Kennedy. Meglio? Sì, perché comunque si è preservata l'istituzione a quel punto. Cioè, non dobbiamo essere ipocriti su questo punto. L'uomo ha una sua dimensione, che è fatta anche di debolezze, più o meno grandi, ma quando tu diventi istituzione ci sono due vie che devono consigliare una misura. La prima via è quella di altre istituzioni che sono preposte alla tutela della Presidenza del Consiglio, in questo caso in quanto elemento cardine dello Stato. E la seconda è la propria coscienza, no? Faccio riflettere l'ascoltatore. Esibire tutto questo a stile di vita, diciamo. No, ma per l'istituzione, secondo me, è un problema. Faccio riflettere gli ascoltatori, su coloro che già iniziano a protestare per quello che sta dicendo il direttore del Tempo. Ma come? Bisognerebbe tutelare gli apparati di sicurezza, a meno che non si sappia Berlusconi, se oggi sfogliate i giornali francesi, trovate le conferme dei vertici del controspionaggio francese che confermano, su richiesta dell'opposizione, che è vero, c'è una squadra del controspionaggio francese che si occupa per tutelare le istituzioni su indicazione della Presidenza della Repubblica, anche di andare a controllare le fonti dei giornalisti che scrivono cose sul Presidente della Repubblica, e i vertici dicono fa parte del nostro mestiere per tutelare le istituzioni. Per dirvi quindi che in grandi paesi oggi, non tanti anni fa, ma oggi avviene, perché al di là della frontiera. Oscar, scusa, io ho avuto la fortuna di conoscere persone che fanno questo all'estero, nelle istituzioni e così via, e che tutelano per esempio il Presidente degli Stati Uniti, o che fanno i briefing per lui, e altri che lavorano nelle istituzioni della Repubblica Francese, eccetera. È normale. E però le grandi democrazie è normale, ma così. Una parte degli italiani a questo punto sembrerebbe in proprietà, sì. Su proprietà. Sansonetti, tu che pensi? Bisogna tutelare Berlusconi in quanto istituzione dalla vita privata di Berlusconi? Io volevo fare un'osservazione su Kennedy. È vero che i servizi segreti, come dice Secchi, probabilmente evitarono che fosse travolto da Sexygate, però è molto molto probabile che poi invece aiutarono, o comunque non ostacolarono, la sua uccisione, per per cui non so se fra i due metodi di lotta politica sia migliore quello di allora o quello di oggi. Kennedy, quando diede fastidio, fu fatto fuori con un colpo di fucile. Anche perché a quel punto i servizi dicono: l'istituzione tanto la preserviamo che siamo noi, quindi decidiamo noi. Siamo noi e decidiamo di ucciderlo. Forse è meglio Ruby, diciamo, di Dallas. Di Dallas nel senso della fucilata, non nel senso del... C'era un Ruby anche in quella vicenda, colui c'era che eliminò Oswald. Colui che eliminò Oswald, esattamente. E puse fine a quella vicenda in quel caso. Perché Ruby tappò la bocca, per così dire. Ecco. Allora, ora abbiamo la pubblicità. Noi, come avete visto, siamo rimasti nella prima parte su le scuse di Berlusconi mancate, la vita privata, le istituzioni, perché quello è il punto da cui si parte. Adesso viene poi il punto vero. Cosa prendere sul serio dell'offerta a Fini, cosa prendere sul serio anche delle risposte che darà Fini, se lo spirito è quello di negare ciò che si dice che ieri si è rivelato in ambo i campi. Pubblicità. Buongiorno, eccoci tornati in studio e abbiamo con noi, si è aggiunto a Piero Sansonetti e Amaro Secchi, Stefano Folli del Sole 24 Ore. Un grande caro saluto a Stefano Folli per il tempo buongiorno che ci dà. Buongiorno. Il commento che oggi Stefano Folli scrive sul Sole 24 Ore ha un titolo che è già un giudizio alla domanda che volevo formulargli, cioè se credere alla profferta, rifacciamo il patto che Berlusconi fa con i berlusconiani che già la negano dicendo non ci crediamo, e alla risposta che verrà quando già dal campo Finiano ieri abbiamo avuto prima una cosa che dice Berlusconi è tardivo, secondo poi una smontita. Il titolo della nota di Folli di oggi sul Sole è "Il duello è senza sbocco", poi si aggiunge "ma in Parlamento succede qualcosa". Allora, non crederci? Ma io dico questo, allora questo patto di legislatura se ne parla da tempo come un fiume carsico, no? Ogni tanto scompare, poi ricompare. Ora, le premesse sono quelle che sono, insomma, sono piuttosto scarse, ma io pongo un accento su un altro punto. I patti si fanno sulla base di accordi in cui c'è uno scambio, un dare e avere. Allora, qual è la sostanza di questo patto? Questo che vorrei che si capisse, nessuno l'ha spiegato esattamente. Il patto che potrebbe in via teorica interessare a Fini, che cosa consiste? Secondo me consiste in una riforma della legge elettorale, perché con l'attuale legge elettorale il patto è soltanto un riconoscimento della, diciamo, della gerarchia del Popolo della Libertà e della supremazia di Berlusconi. Una diversa legge elettorale permetterebbe a Fini, che ormai sta costruendo un partito, la terza gamba, un partito autonomo, di avere una sua storia politica nella prossima legislatura, quando comincerà la legislatura. Ma finché il patto di legislatura non prevede soltanto un generico accordo sul programma e non prevede uno scambio preciso tra un signore che ha guidato il centrodestra per tutti questi anni e un signore che invece vuole avere un futuro politico sostanzialmente autonomo, e se non c'è uno scambio preciso non ci può essere nemmeno il patto di legislatura. Naturalmente a questo punto l'obiezione che dovrei farti, ed è scontato, è che interesse può avere Berlusconi a cooperare a una riforma elettorale che proietta... Infatti non ce l'ha Oscar, non ce l'ha, e il patto di legislatura è una proposta così, cioè, in sostanza cosa dice Berlusconi? Fini, aiutami a governare per questa legislatura perché non conviene nemmeno a te confonderti con i ribaltonisti, con il centrosinistra, eccetera. Aiutami a attuare il programma che tu peraltro contesti, perché sulla giustizia c'è la contestazione totale, ma insomma aiutami a varare il programma che tu stesso hai votato quando si è votata la fiducia alla Camera, al Parlamento l'altro giorno. Ma questo ormai è chiaro che non è così, non può funzionare questo tipo di impostazione, secondo il mio punto di vista, e viene smentita ogni giorno. Quello che potrebbe funzionare è un'altra cosa, quello che ho detto, uno scambio in cui Berlusconi concede una cosa e Fini ne concede un'altra. Di questo scambio non si vede traccia, perché giustamente, lo rilevi tu, Berlusconi non ha nessun interesse a cambiare la legge elettorale, e allo stato delle cose nemmeno Bossi avrebbe l'interesse. Noi ringraziamo Stefano Folli perché mi sembra che come al solito è un freddo certificatore di oggettività, ci mette poca passione ma la freddezza aiuta quando ci sono interessi contrastanti in campo. No, grazie davvero, no, anche perché sono un po' preoccupato dal fiatone che hai, quindi non vorrei... Un abbraccio a Stefano Folli, iniziamo a sentire gli ascoltatori cosa pensano. Cominciamo con Pino che chiama da Genova. Sì, buongiorno, sono Pino di Genova e io volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda la questione Berlusconi e ragazze. Allora, negli anni 80-90 abbiamo assistito a un uso politico della magistratura e a un uso giudiziario della politica. Adesso l'Italia, che non ha un'opposizione in grado di fare l'opposizione, per contrastare l'uomo che comanda, ricorre a un uso giornalistico della politica e un uso politico del giornalismo, abbinato a quello anche politico. Non sono in grado di portare qualcosa di migliore, di innovativo per fare politica in maniera concreta e si avvalgono di questi mezzi, al di là, ripeto, di quello che è l'aspetto etico e morale che dovrebbe caratterizzare un uomo come il Presidente del Consiglio. Che però la convince abbastanza, Pino, con questa impostazione, se capisco bene, no? Dunque, io premetto, sono un elettore di centrodestra. Se io potessi parlare a Berlusconi personalmente, gli direi: Berlusconi, stai sbagliando tutto. Queste cose falle, ma falle quando non sarai più Presidente del Consiglio. O quantomeno cerca di essere più furbo e di farlo in maniera da non farti vedere, perché io vedo... in Italia tanti politici, tanti partiti hanno commesso tante cose che non vanno bene. La sinistra ha rubato come hanno rubato tutti gli altri. No, ma adesso senza estendere. Ma non sono però mai stati presi, sono stati furbi. A me interessava... Sì, ma non si tratta però, Pino, adesso non voglio commentare le tue opinioni, non si tratta solo di non farsi prendere, si tratta semplicemente del fatto che se si apre la propria vita notturna a decine o a non so quante di ragazze pescate per caso, che poi passano e consegnano tutto quello che sei tu, in pasto al pubblico, avendo vite disordinate, non voglio giudicare, ognuno purtroppo ha la vita complicata che si ritrova, non è facile la vita neanche della minorenne diventata maggiorenne due giorni fa, però è ovvio che quello è un po' incompatibile, secondo me, non con giudizi di etica privata, che io non do, ci mancherebbe altro, ma col fatto che inevitabilmente il Presidente del Consiglio finisce in pasto a una macchina di questo tipo, perché è inevitabile che una ragazza a quel punto, di fronte al mondo dorato della follia velinistica e dei pacchi di quattrini, i pacchi di quattrini, ma vogliamo parlare di che cosa può pensare la gente che non arriva a 1200 euro? Non è populismo, è ovvio, ci sono milioni di italiani che fanno questo ragionamento e tu, se sei Presidente del Consiglio, devi sapere che è giusto così, non puoi pensare che a chi stenta o anche a una vita normale si conta comunque le decine di euro, e l'idea è che se c'è una figlia minorenne e dice: papà, ma allora perché non ci vado anch'io a avere i 10.000 euro a pacchi? E tu cosa gli rispondi se tua figlia ti chiede una cosa simile? E attenzione, qui c'è un problema di fondo, che non è solo il non farsi beccare, e non è solo l'etica, perché ripeto, a me di chi fa sesso con chi non è quello il punto. Il problema è che cosa, se hai un incarico politico istituzionale, trasmetti alla totalità della comunità di cui sei la guida, coloro che ti hanno votato, come Pino da Genova, che pure a quattro occhi direbbe questo, e coloro che non ti hanno votato. Sentiamo Fabio, sempre da Genova. Genova oggi è molto calda al telefono. Fabio, che ne pensa? Sì, buongiorno, dottor Giannino. Rispondo molto sinteticamente alla domanda che lei ha chiesto ai radioascoltatori. Lei ha detto che è scettico di fronte al discorso che ha fatto Berlusconi sulla mafia, eccetera. Io sì, non sono scettico, penso proprio che sia una cosa assolutamente non vera, cioè un altro esempio di propaganda e di come portare al consenso nonostante una vicenda del genere. Io dico una cosa molto semplice, sono d'accordo con quello che dice lei, un Presidente del Consiglio, per non rendersi vulnerabile, visto che nella sua vita privata può fare quello che vuole perché è un cittadino, ma è anche il Presidente del Consiglio, non dovrebbe avere certe frequentazioni e comunque dovrebbe esserci qualcheduno addetto anche alla sua sicurezza personale che dovrebbe fargli presente evidentemente queste cose. Per quanto riguarda il discorso della tutela, come ha detto anche il dottor Bechis, mi sembra veramente assurdo poter parlare di tutela quando uno si va a cercare i problemi e le grane da solo. E per rispondere all'altro genovese, non credo che qui c'entri di nuovo la sinistra o i magistrati rossi, ma è Berlusconi che si crea dei problemi da solo. questo anzi, è... anzi, c'è una parte della sinistra che si sta rivoltando contro il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati, ce ne siamo occupati anche ieri con Livio Pepino che esce da Magistratura Democratica, lui ha negato che sia questo, però poi sono arrivate le dichiarazioni che incolpano o comunque criticano il procuratore di Milano dicendo ah, tu stai facendo il filo berlusconiano, chiunque conosca Edmondo Bruti Liberati penso che si può fare una serena risata di fronte a questa accusa. Non era Becchis ma era Mario Secchi, per correggo. E sentiamo ancora Osvaldo dalla provincia di Treviso. Osvaldo, prego. Pronto? È in ascolto Osvaldo, ecco, sì, prego, dica. Salve, buongiorno Giannino, molto piacere di risentirla. Quello che ho puntualizzato alle sue collaboratrici era una cosa, il voltagabbanismo italiano. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha un gruppo misto alla Camera, al Parlamento, dove tutti, mi si permette, i rifiuti degli altri partiti, quelli che stanno cercando di cambiare casacca, parcheggiano in attesa di eventi migliori. Questa è la prima cosa che a me disgusta. Mi disgusta l'atteggiamento di Fini. Io sono di destra, non sono mai stato di destra estrema, non ho nessuna intenzione di neanche di diventarlo, però quello che veramente mi dà fastidio è vedere l'atteggiamento arrogante di Fini, che ha comunque commesso qualcosa di scorretto, non di penalmente rilevante, di scorretto ai danni del suo partito, visto che ha fatto un qualche cosa di scorretto dando il benestare alla vendita a sotto costo a un suo quasi parente. L'atteggiamento che ha tutto questo gruppo che è nato, questo voltagabbanismo non ci sarebbe per me se ci fosse una legge molto semplice. Tu sei stato eletto nel partito A, benissimo, devi vivere e morire nel partito A, diversamente decadi e immediatamente dopo, se tu hai voglia di uscire da questo partito, subentra il primo non eletto. Sarebbe la cosa più semplice. Osvaldo, una legge non basta perché è un principio costituzionale quello che vieta l'imperatività del mandato, cioè al parlamentare, è una garanzia costituzionale e quindi bisognerebbe cambiare la Costituzione, e siccome è un principio di antica garanzia costituzionale del parlamentarismo liberale, che era all'epoca, nell'Ottocento, ai tempi delle prime costituzioni octroyée, era una garanzia per il parlamentare, perché i governi inficiavano molto i processi elettorali con le prefetture, era una garanzia per il parlamentare di poter cambiare partito, appunto, e quindi bisognerebbe smontare la Costituzione. Capisco che oggi è cambiato rispetto ai tempi di Giolitti, che lo faceva ancora molto pesantemente all'inizio del secolo scorso. Sentiamo ancora rapidissimamente Daniele da Bologna. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ospiti. Eccoci. Sì, ecco. Io volevo far presente una cosa che molto probabilmente non è stata notata o si noterà forse fra un po'. Qual è? L'errore che sta facendo Fini nel cercare di distruggere il PDL. A me se non concesso che ci riesca, perché una frase con Letta disse mi distrugge me Berlusconi o lo distruggo io. A me sembra un concesso che riesca anche a distruggere Berlusconi, così naturalmente anche il PDL, non si rende conto che tutti i voti al nord del PDL, se non dovesse esserci più questo partito, andrebbero tutti alla Lega. Lui non prenderebbe un voto se fa un governo tecnico con la sinistra. Questo forse lo sa, forse non lo sa, ma si deve rendere conto che farebbe l'errore di non rafforzare la Lega, ma addirittura portarlo in 5 regioni del nord ad avere la maggioranza assoluta. Questo è quello che vuole Fini, avere praticamente il nord completamente in mano. Io sono un elettore del PDL, ma gli garantisco che piuttosto di votare Fini, voto Di Pietro. Io sono insieme a tanti altri, che io faccio politica, io sono proprio il popolino del PDL. Vi dico la verità, è una parola grossa ma mi viene dal cuore, il politico che io odio di più in questo momento è Fini. L'abbiamo capito. No. D'accordo. Allora, io ringrazio anche Daniele. Non so, nel caso in cui si facesse un governo istituzionale che comprende Fini, per una legge elettorale come quella a cui è interessata Fini, avete visto che però nei sondaggi questo terzo polo, la somma di Rutelli, di Casini, di Fini, di Montezemolo è valutata addirittura oltre il 20-21%. Vi ricordo che bisogna vedere con quale legge elettorale, se si usava il Mattarello, Martinazzoli arrivò al 19% e fu comunque la morte del Partito Popolare al centro. Non lo so, certo l'effetto di abbandono PDL per votare Lega in caso di frana del progetto politico del centrodestra di Berlusconi è un effetto molto molto molto forte qui nel nord, secondo me. E attenzione, perché questo solo effetto potrebbe rappresentare agli occhi di Fini comunque un buon obiettivo. Quello che i direttori del centrodestra che ci hanno telefonato dicono di non comprendere potrebbe rappresentare comunque un buon obiettivo, perché un conto è, se si vuole andare al centro e cambiare la legge elettorale, avere solo una Lega costitutiva identitariamente a nord di una partita che si può trattare con lei istituzionalmente, il prosieguo del federalismo, e allora però meglio se si ha questo in testa prosciugare il più possibile del PDL nel nord. Quindi attenzione, che quello che viene imputata da voi come accusa all'onorevole Fini potrebbe essere paradossalmente esattamente uno dei fini dell'onorevole Fini. Ora abbiamo l'informazione stradale e poi torniamo sul punto cosa aspettarci da Fini con Mario Secchi e Piero Sansonetti per chiudere. Allora, cominciamo con la domanda diretta: cosa aspettarsi dall'onorevole Fini alla convention di Perugia. Cominciamo con Piero Sansonetti, che ti aspetti? Ma insomma, quello che dicevo un attimo fa l'ascoltatore secondo me è un po' la chiave di tutto. Era un elettore del centrodestra convinto che diceva in questo momento che odio più di ogni altro è Fini, addirittura che ha detto che avrebbe votato Di Pietro pur di non votare Fini. E questo dimostra che Fini può fare quello che vuole domenica, ma la rottura fra Fini e Berlusconi è inconciliabile, nel senso che proprio non è possibile, è una rottura che ormai è profondamente penetrata dentro l'elettorato, quindi non possono più disporne neanche loro. Ora, l'unica cosa è quella che diceva, come le definivo te, il gelido folle, diciamo, che ha assolutamente ragione. E o si fa un patto vero, e il patto si può fare solo sulla legge elettorale, perché è solo questo che al momento è in discussione. Come una legge elettorale può riorganizzare la politica italiana, perché la politica italiana è terremotata e non ha più praticamente maggioranze. Ora, siccome quello è il tema, io non sono convinto che non esista una possibilità di una legge elettorale che vada bene a Berlusconi e vada bene anche a Fini, e lì bisognerebbe lavorare. Ah, io per esempio, e che tipo? Per esempio una legge elettorale americana che garantisca a Berlusconi quello che vuole, cioè l'elezione diretta del Premier o del Presidente, non è che cambia molto, che è quello che vuole Berlusconi, è un Parlamento o maggioritario o proporzionale, ma comunque un Parlamento non legato al Premier. Voi sapete che in America, per esempio, in questo momento c'è un Presidente che è nel pieno del suo potere, ma non ha maggioranza in uno dei due rami del Parlamento. In altri momenti ci sono stati Presidenti che non hanno maggioranza in nessuno dei due rami del Parlamento, eppure l'America viene governata tranquillamente. Allora una legge di quel genere potrebbe andare bene a tutti, perché garantirebbe, diciamo così, la dialettica parlamentare, la possibilità di terzi poli e tutto, e garantirebbe a Berlusconi quello che lui vuole, cioè l'elezione diretta del Premier. Quella è una legge, adesso non so come è articolabile, si può modificare eccetera, ma sulla quale si potrebbe trovare lo sforzo. Io lo dico, ho sempre pensato il contrario, ho sempre pensato che la sostanza della politica è tutt'altra che la legge elettorale. In questo momento però non vedo alternative. E se noi raccontiamo la storia della politica italiana dal 96 a oggi, e io ti chiedo, mi dici che politiche ha fatto il centrosinistra e che politiche diverse ha fatto il centrodestra? Tu non lo sai, perché hanno fatto fondamentalmente la stessa politica. Viceversa, se ti chiedessi che politica ha fatto Bush e che politica ha fatto Obama, sarebbe piuttosto facile elencare le differenze. Allora forse il problema adesso è quello di riorganizzare lo scontro politico. Lo so, io preferirei discutere di cassa integrazione, di sviluppo economico, di legge sulle pensioni, però forse bisogna prima fare questo patto. E E ha ragione Folli, se davvero riescono a fare questo patto possono andare avanti, se no non possono andare avanti. E allora forse dimostra maggior responsabilità politica fra Fini e Berlusconi, quello dei due che avrà il coraggio di affrontare l'elettorato e di dire da solo, così non si può più proseguire, andiamo a votare. Bene, Sansonetti quindi dice, bisognerebbe cambiare la regola della rappresentanza, c'è anche un'ipotesi per cui... c'è una soluzione che li può tenere d'accordo Fini e Berlusconi sulle regole di rappresentanza. Capisco chi dice contenuti, ma se le regole di rappresentanza sono così adulterate, l'effetto è quello poi che in Italia abbiamo la notte in cui tutto diventa grigio e l'informazione come sopra quello che ci ha detto. Invece Mario Secchi cosa si aspetta? Cosa è ragionevole attendersi da Fini? Il logoramento di Berlusconi, quindi non un no preciso, ma andare avanti no, con la certo. commedia. Sì, andare avanti ancora un po', logorarlo e vedere che cosa succede. Quanto alla cosa che diceva l'amico Folli, tutto vero, ma impossibile. E quanto a quello che diceva Sansonetti sulla riforma presidenziale, addirittura all'americana, sarebbe troppo bello per uno come me. No, ma figuriamo, io penso che il vero paradosso è che in questa puntata troveremo tre persone che la votano subito, cioè Sansonetti, subito. La vera notizia è Sansonetti che vuole la riforma all'americana, questo è il anche Giannino. Potremmo a quel punto, se ci fanno quadrumviri, la scriviamo sì, in un giorno. Perché, perché è veri, Oscar, credo che gli ascoltatori su questo concordino tutti, ma gli Stati Uniti continuano ad essere un faro eccezionale di democrazia. Si vota ogni due anni e si testa il gradimento del presidente, che corregge la sua politica se vede che l'elettorato non la gradisce e dà dei segnali. Le campagne elettorali sono durissime. Ero negli Stati Uniti fino a una settimana fa, quindi so di cosa parlo, ero in California, era una cosa devastante, una campagna elettorale dura, cattiva, ma dopo il voto si chiude tutto e si comincia a lavorare. Obama ha detto ho perso, ho capito, ho ascoltato, probabilmente adesso sostituisce Geithner all'economia, cioè è un circuito, è un sistema istituzionale che si muove, qui invece siamo nella palude. Ultima cosa, ma perché la Lega dovrebbe tenere bordone alla commedia tra Berlusconi e Fini, secondo te Mario? Ancora per un po', perché tutto questo rafforza la Lega. Cioè di fronte a un sistema dei partiti che è sostanzialmente in pappa, che è una maionese impazzita, l'unico partito che tiene sul territorio è la Lega, che amministra, che guida e che, ahimè, lo dico non condividendo la cosa, ma è così, lavora a una secessione de facto del paese. Cioè non c'è sei entrato anche tu in campagna elettorale con i tuoi elettori del centro, dici che la Lega vuole di nuovo la secessione. Ma non è che la vuole coi fucili, i proclami, queste sono corbellerie che non stanno né in cielo né in terra. La secessione è de facto. Guardate che cosa succede a Terzigno, no? Dove bruciano la bandiera. Ma è colpa della Lega, non credo. No, non è colpa della Lega, ma questo aiuta la Lega. Cioè, laddove la Lega amministra e fa funzionare le cose, per esempio in Veneto... Mi stai dicendo che la colpa della Lega è che fa funzionare le cose? No, non è la colpa, è il fatto che è virtuosa, cioè il Veneto smaltisce l'80% dei rifiuti, Può vivere in un paese in cui la virtù e l'efficienza, non solo della Lega, in generale di altre regioni, non voglio alimentare la cosa nord contro sud, diventa una colpa? Insomma. Non è una colpa, è un merito, è il contrario, e questo merito si trasformerà, se le cose continuano ad andare così e se il sistema istituzionale non dà risposte, in una divisione sempre più ampia e più forte, in un solco sempre più profondo tra nord e sud. E torniamo ai problemi veri tra chi pedala di più e chi pedala di meno nel nostro paese. E allora vediamo un po', io tendenzialmente non credo molto all'offerta di Berlusconi di ieri e credo ancora di meno se Fini non risponderà con chiarezza. Mi auguro che a quel punto la Lega dica stacchiamo la spina, perché altrimenti di commedia in commedia si finisce in tragedia. Quindi grazie a Mario Secchi, grazie a Stefano Folli, grazie al carissimo Piero Sansonetti, grazie in regia Paolo Corleoni, Alessandro Chiappini, grazie redazione Antonella Migliaccio e a Gloria Guerrera che oramai non mi vuole più bene, ma detto tutto questo, l'appuntamento con noi è lunedì, linea al giornale radio.